Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, per augurarvi un buon sabato 16 aprile, un ottimo weekend. Con i compari dei Conti della Belva, tutti qua in studio di Milano, vi salutiamo e vi ringraziamo per l'ascolto in diretta o in podcast. E quindi, oltre a Oscar Giannino, Renato Cifarelli. Ma è Carlo Alberto Carnevale Maffè, che si è un po' perso nel salone del mobile. No, ma... allora, oggi c'era molto traffico per arrivare, però adesso appena aprono il tunnel di via San Gottardo. Sì, esatto. Però stanno ancora scavando. Iniziate a mancare di rispetto al Presidente del Consiglio. Oh, ecco. Ragazzi, il Gottardo che c'entra? È per fortuna che c'è Renzardo, che da solo gioca al Gottardo, lui non è bravo in geografia. Vabbè, l'Atlante a qualcosa serve, vedi, oh. Che so, fa l'Atlante, c'è il passo e c'è il tunnel. No, dire. Ragazzi, c'è anche Mario. Scusa Mario. Salve, buongiorno. Vabbè, ragazzi, vi garantisco che i compagni Conti della Belva sono sobri, non hanno bevuto, anche se da questo inizio è un po' travolgente. No, io poi sono astemio, ve l'ho detto, cioè non c'è niente da fare. Ognuno ha i suoi difetti. Esatto. Quindi, naturalmente, quando sentite Mario Seminerio puntuto, non dipende da quello che ha bevuto, è così di natura, questo è il problema. Dipende da quello che legge, quindi scrivete cose più intelligenti. Allora, ragazzi, autoproduzione. Allora, di che cosa parliamo in questa puntata per consentire ai nostri ascoltatori di intervenire? Chiamateci 800240024. Tanto va bene che il tempo è abbastanza buono, ma non siete ancora al mare, punta d'invidia se siete al mare invece, ma comunque chiamateci. Allora, di che cosa parliamo? I blocchi di argomenti sono questi. Oltre alla carrellata iniziale della trasmissione, in cui vediamo come al solito con la rubrica di Mario puntuale a che punto è la crisi, un po' gli sviluppi di questa settimana, che polemiche ci sono state sui numeri, insomma il Fondo Monetario che ha abbassato ancora le stime di crescita mondiali ma anche dell'Italia, qualche coda ancora del documento economico finanziario in questo contesto di crisi da cui si sembra proprio non pronti a uscire, per così dire. Andiamo a esaminare poi un paio di questioni più rilevanti. La prima è un blocco di riflessione intorno a un punto rilevante davvero. Sta nascendo questo veicolone Atlante, come sapete, che nasce come espressione della convergente volontà, libera volontà, non di Stato, per carità di Dio, lo Stato fa solo il facilitatore insieme a Banca Italia, di banche, assicurazioni, fondazioni bancarie, oltre che CDP, per creare uno strumento che ha due finalità. La prima è coprire la parte inoptata degli aumenti di capitale che si approssimavano sempre più e che erano molto problematici, a dire la verità, e la seconda, quella di dare una smossa, una scossa dalle fondamenta al mercato dei crediti deteriorati per vedere di levarli dai bilanci delle banche su cui gravano e tentare in questo anche dichiaratamente di far finire la pacchia dei fondi esteri che credono di rilevarli con un abbattimento di valore rispetto al nominale molto elevato. Ricordate che nel caso delle quattro banche risolte a novembre l'abbattimento è stato rispetto a 100 di nominale alle bad banks è stato dato a 17,5, quindi insomma un signor abbattimento, e su questo le banche italiane hanno sempre protestato. Allora vedremo a che punto siamo con questo progetto, quali sono i difetti potenziali, quali rischi, che cosa non abbiamo ancora capito. Tanto vedremo, c'è un Consiglio dei Ministri lunedì sera promesso per con gli interventi del governo su questo, e avremo diverse voci per capire un pochino se l'entusiasmo che si è sparso nel mercato italiano su questo progetto sia così rilevante. Noi ci rivolgiamo in particolare tra voi a coloro che sono azionisti della Popolare di Vicenza o di Veneto Banca, perché avremo anche come ospite un giornalista che ha scritto un bel libro, Banche Rotte, dedicato esattamente alle vicende Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E in particolare, siccome non è un mistero, questo Atlante nasce proprio per coprire l'aumento di capitale di una di queste due banche, che era molto problematico da coprire, che parte il 18 aprile, su cui era impegnato Unicredit nel consorzio di garanzia e doveva garantirne praticamente il 100% dell'optato da solo. Per questo c'è molta fretta per far nascere Atlante. Noi vi chiediamo di farci sapere come l'avete presa fino a questo momento, negli ultimi due anni, la la vostra un po' amareggiata carriera di azionisti di queste due banche, e quindi telefonateci in particolare da parte vostra. Poi un altro blocchetto di riflessioni su uno dei provvedimenti che è intervenuto questa settimana nel cantiere delle pensioni. Il cantiere delle pensioni è sempre aperto, e con cose che non ci convincono molto, a dire la verità. Una di queste è per molti versi il provvedimento adottato questa settimana. Era una delle due misure dedicate alle pensioni su cui il governo in legge di stabilità aveva dato il suo ok. Ora siamo al decreto attuativo, e questo prepensionamento iperincentivato per coloro che hanno 63 anni e 7 mesi alla fine del 2015 e che quindi maturavano i requisiti anagrafici avendo almeno 20 anni di contributi versati, quelli previsti dalla legge Fornero li maturavano entro la fine del 2018 per andare in pensione, a questi soggetti lo Stato, se del dipendenti a tempo pieno, a tempo determinato del settore privato, consente di trasformare il contratto da tempo pieno a part time, mantenendo però al salario del part time anche il salario aggiuntivo equivalente ai contributi che avrebbe versato l'impresa se il rapporto fosse rimasto a tempo determinato, e oltretutto esentasse, quindi un bel guadagno, e oltretutto con i contributi, anche in questo caso, che restano come se il rapporto fosse rimasto a tempo determinato, pagati dallo Stato, figurativi. Domanda: perché dare una mano ai 63enni se non abbiamo fatto niente per la povertà fino a questo momento e praticamente niente per i giovani? Però ci interrogheremo su questo. Se siete tra gli interessati 63enni, chiamateci. Di sicuro è un altro passo verso poi l'attacco generale ai tetti previdenziali che ci sarà nella legge di stabilità 2017, perché il governo l'ha promessa, e vedremo con quanto deficit aggiuntivo. Questi un po' i temi di cui parliamo. Rapido giro però per vedere che cos'altro oltre a questo in settimana vi ha colpito, Renato. Ah, mi ha colpito quello che leggevo stamattina, che sono usciti i dati di FS che se la tira da azienda di mercato e dice abbiamo fatto utili, e però la cosa che mi fa ridere è che dicono che ci sono ampi spazi di miglioramento per ampliare nel trasporto locale. Tu capisci cosa vuol dire, vero? No, no, c'è scritto nell'articolo, c'è scritto che comprano l'ATAC. C'è scritto che comprano l'ATAC. E questa settimana, tra le novità, Del Rio ha confermato che si sta davvero pensando anche a estendere ad ANAS. E come si dice, sono passi in avanti implacabili sulle privatizzazioni. Devo dire che FS ha un'expertise per ANAS che va bene, perché ultimamente le strade sembrano un po' tipo le rotaie, come... battutacce. E quindi direi che... devo segnalare che ci ascolta, è uscito in settimana su lavoce.info un articolo del professor Marco Ponti molto tagliente su questa ipotesi di Ferrovie dello Stato più ANAS. Naturalmente noi siamo critici come loro, naturalmente siamo in minoranza assoluta, però se volete approfondire il come e il perché, c'è bisogno assolutamente dell'opposto creare nuovi soggetti ancora di perimetro più ampio e di competenze ancora più in conflitto, in contrasto con gli interessi del mercato e di prezzi chiari, perché qui bisogna estendere le gare e applicare anche a FS il principio delle gare invece che annullarla ulteriormente estendendo a FS anche ANAS. Però vi segnalo questo, e quindi è un tema manca, che vedremo. Manca solo all'Italia, poi siamo a posto. Vabbè, terra cielo mare, questo come diceva il vecchio regime. Caro Alberto, devo segnalare la pubblicazione dei verbali di una nota banca popolare del Nord-Est che ha fatto emergere la composizione di chi ha votato contro l'azione di responsabilità del management precedente. Ne avevamo già parlato, però i nomi che sono emersi, Oscar, francamente confermano l'arrabbiatura, perché quando vedi che viene ammessa in votazione in palese conflitto di interessi la famiglia o addirittura gli stessi amministratori che votano contro l'ipotesi di vedere vedersi oggetto di azione di responsabilità, allora forse capisci che la governance di questo paese ha qualche problema. Sì, e capisci anche come mai i fondi di investimento americani giustamente guardano con grande scetticismo la possibilità di cambiare il meccanismo in cui vengono governate le aziende di questo paese, e forse capisci anche come mai servono forze mitologiche per riuscire a questo punto a compensare. No, soprattutto capisci come mai nel book delle prenotazioni di Unicredit, la testa del consorzio di garanzia per l'aumento di capitale di quella banca, fino a questo momento gli iscritti erano zero. Quindi questo è il punto, lo si capisce con quel tipo di voto, ma non solo gli ex. Il problema è che sono anche indagati questi qua, eh? Quindi, eppure votano. Sì, però sai, lo status di indagato mi interessa poco. Però dal punto di vista formale, cioè io faccio votare uno in assemblea in pieno e chiaro conflitto di interessi. Non lo so, io personalmente forse il presidente avrebbe dovuto. Che dici, Mario? No, a parte a segnalarti che tu hai fatto un assist facile, come l'avete presa, e qui stanno già rispondendo, ecco, indicando una precisa parte anatomica. Questa era anche troppo facile. Poi, per quanto mi riguarda, a me ha fatto morire dal ridere questa presa di posizione di Giuseppe Guzzetti, no? Il presidente delle fondazioni bancarie, dell'ACRI, che giustificando il discorso di Atlante, la sua funzione, ha detto: è finita la cuccagna di portare via le nostre sofferenze al 18-20% e naturalmente fare l'affare del secolo. Perché con Atlante, virgolette, le nostre banche non verranno depauperate delle loro sofferenze attraverso l'azione di questi speculatori. Filosofia. Noi difenderemo le nostre donne, i nostri bambini e le nostre sofferenze, per le quali generazioni di italiani sono morti dal Piave in avanti e all'indietro. Va bene, strade. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamo della belva. Ed eccoci tornati con la sigletta della nostra rubrica. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa... Ma che crisi, la ripresa italiana è travolgente, come è noto, e rimaniamo qua in attesa naturalmente dei dati del primo trimestre del 2016. Ricordo a tutti che la stima dell'Istat era, ma insomma, non molto diversa dall'ultimo trimestre del 2015, cioè più 0,1%, però vedremo. Nel frattempo il Fondo Monetario ha dato una nuova frenata all'Italia, al mondo, eccetera. Che diciamo, Mario, di questa atmosfera internazionale? Ma sì, che c'è questa sorta di rallentamento che è ampiamente oramai scontato, in atto, eccetera. La Cina regge, hai visto il dato di 6,7 di PIL, che tuttavia, elemento abbastanza preoccupante, è stato fatto con la stessa ricetta da cui la Cina si deve allontanare, cioè è stato fatto con una esplosione di credito, con un aumento dell'attività di investimento, quindi con attività di costruzioni, manifatturiera a credito, mentre il settore dei servizi ha lievemente toccato il freno. Cioè la Cina sta tenendo i livelli di crescita, però con la stessa ricetta sbagliata che sta cercando di rovesciare come modello di sviluppo. Però siccome siamo psicolabili e abbiamo la memoria di un pesce rosso, soprattutto sui mercati, questa settimana tutto bene, sono piaciuti i dati della bilancia commerciale cinese, per la prossima settimana vediamo. Nel frattempo il povero Giappone è disperato perché stanno cercando di convincere il resto del G7, ma anche il G20, che forse prima o poi saranno costretti a cercare di deprezzare ancora lo yen, e gli è già arrivato un bel ammonimento da Washington del tipo: non azzardatevi. Ricordiamo, lo yen, dopo tutta la moneta che viene stampata, diciamo, da 2 anni a questa parte dalla banca centrale giapponese, lo yen è sempre più forte e sta veramente mettendo in grosse difficoltà gli esportatori giapponesi, oltre che riprodurre le pressioni deflazionistiche sul paese. Quindi congiuntura non semplice. Però piccolo laboratorio, si fa per dire, lo dico così, modesto laboratorio, sapendo già che direbbero che non è vero, su cui riflettere per coloro che propongono agli italiani: torniamo alla somma di 3 cose, cioè via l'orrenda moneta comune, che eccetera eccetera, dall'altra parte ci recuperiamo una bella sovranità monetaria, terza, riaccentriamo tutto il debito nelle mani degli intermediari e delle famiglie italiane, e così vedrete che con la moneta debole tutto ripartirà, andrà per bene. Non mi pare che il modello giapponese confermi che funzioni così, eh? Sì, ma guarda, cioè io veramente stenderei un velo pietoso su tutti questi concetti della sovranità monetaria. Cioè, voglio dire, avrà anche il suo peso, però onestamente ci avrebbe anche stancato, diciamo. La realtà sta altrove, andiamo avanti e vediamo. Adesso aspettiamo i commenti con la bava alla bocca e chi se ne frega. Ecco, però il Giappone intanto va così. Posso chiederti, Mario, un commento sul bollettino di Banca Italia sul debito? Perché avevamo 2 promesse del Presidente del Consiglio sulla diminuzione del debito, e il debito è salito di 21 miliardi, cioè quasi l'1% in un mese, sono 2% sul sull'anno. Sì, sì, sì, e sì. Le entrate tributarie che dovevano crollare, giustamente, sono cresciute del 3,5%. Ma ci dai un'interpretazione giusto matematica? La compliance anti-evasione fiscale funziona perfettamente. E dopodiché, visto che continuano a farcelo a sushi con il fatto che o quest'anno o lo scorso o il prossimo ci sarà questo evento storico che il debito PIL comincerà a piegare dopo 1000 anni, e la cosa non si sta verificando, e questo è sinceramente preoccupante. Io questa settimana non ci sono stati dati macro rilevanti, quindi io tornerei un attimo sul DEF, esatto, ma anche su alcuni dati a consuntivo che sono abbastanza sfiziosi. Nel 2015 praticamente abbiamo che la produttività del lavoro misurata sulle teste, cioè sul numero di occupati, è aumentata di solamente lo 0,2. Quella misurata sul monte ore, che è quella che fa effettivamente la differenza e la sostanza, è addirittura diminuita dello 0,1%. Andiamo bene. Quindi la cosa colpisce. Allora, è vero che la produttività... Lavoriamo di più e produciamo di meno. No, ma è vero che la produttività non si risana schioccando le dita o con un tratto di penna. Però la cosa che mi colpisce è che stiamo facendo da oltre 2 anni queste riforme epocali, senza precedenti, eccetera. Il male di questo paese, il male nemmeno troppo oscuro di questo paese, è la produttività insoddisfacente, stagnante o declinante. E nel 2015 si è verificato esattamente questo. Per cui io misurerei l'efficacia delle riforme, tra tutti gli altri parametri, anche dalla capacità di rigenerare e far tornare a crescere la produttività. Perché senza questa variabile questo paese non va da nessuna parte. Poi un altro punto. Adesso il governo si accinge all'ennesimo negoziato con la Commissione UE per quanto riguarda il deficit PIL. Praticamente, come dire, se riusciremo ad ottenere questo deficit PIL l'anno prossimo all'1,8%, ci mancherà da coprire soltanto 8-9 miliardi, ammesso che la congiuntura regga e non peggiori. Come fare per questi 8-9 miliardi? Ho visto che è tornata di moda. Ora, a parte la spending review, che quella va sempre di moda, vabbè, però avete visto ha detto che altri 25 miliardi, altri 25 miliardi. Ogni settimana, vabbè, ci sono nuovi 25 miliardi. Ma a parte ciò, la revisione delle tax expenditures, cioè praticamente delle agevolazioni fiscali. Ora, se la memoria non mi inganna, a parte che questo tema è sul tavolo da un bel numero di governi, Berlusconi, sì, Monti, Letta e lo stesso Renzi, che vuol dire questo? Sostanzialmente noi togliamo delle agevolazioni per fare gettito, e in realtà non dovrebbe funzionare così. Noi dovremmo togliere agevolazioni e con l'aumento di gettito restituirlo attraverso la riduzione delle aliquote. Esatto. Questo non avviene, ma lo stesso Renzi per 2 anni ha stoppato l'idea di fare cassa per il bilancio pubblico tagliando le agevolazioni fiscali, perché ha detto che è recessivo. Adesso, curiosamente, bizzarramente, sta risollevando il problema. Per cui c'è adesso bizzarramente lo dicono per documentare alla Commissione, esatto, la possibilità di fare saldi migliori, e poi sfonderanno. Dai, ma è così. Esatto. Scusami, questo proprio lo dico mica per, scusate ascoltatori, perché alcuni dicono sia pregiudiziale contro il governo Lenzo. No, una delle chiavi di lettura di questi 2 anni di governo Lenzo è esattamente l'estensione dell'uso discrezionale dell'uso delle detrazioni, deduzioni e bonus. Cioè, ai colleghi della stampa hanno fatto un calcolo, e il calcolo è che col governo Renzi i beneficiari di discrezionalità fiscale favorevole decisa dal governo a chi, a come, per quanto, sono aumentate di 4 milioni di individui nel nostro paese, perché alla politica piace la misura fiscale discrezionale. Stabilisce a tavolino, la tratta direttamente, te la mette sul tavolo, dice: hai capito a chi devi riconoscenza? No, tutta la vicina dei bonus vari e diversi nasce così. I bonus non sono solo quelli 80 euro, ce n'è un bel po' di altri, tant'è che sono cresciute di centinaia, certo, di unità, no? Sono moderne scarpe di Achille Lauro, lo scusate, sai, no? Sono passate da 730 a 779 il totale delle misure discrezionali di beneficio fiscale. Quindi, siccome questa è la cifra del governo, è un po' difficile aspettarsi che adesso non solo facciano retromarcia, ma la facciano per fare cassa, cioè per fare aumentare a quel punto il totale delle entrate. Quindi, secondo me, non è così. Al massimo dicono di toccarle, e con quello finanziano altre discrezionalità favorevole fiscale. Una cosa è sicura: continuando di questo passo, l'intervento generale sulle aliquote, sia per persone giuridiche, IRES-IRAP, sia per persone fisiche, IRPEF, come avevano promesso essere il cuore degli interventi 2017-2018, non lo fanno, perché non puoi fare tutte le cose contemporaneamente. Sì, sì. Sicuramente manca la parte risorse. Discrezionale vale anche per il negativo, cioè togliere è un segnale punitivo, come dire stai attento perché se no te le tolgo le tue prebende. Questo è un segnale importante perché aumenta comunque il grado di discrezionalità del regime fiscale, Oscar. C'è dubbio. Allora io devo dire che però a me in settimana la cosa che mi ha fatto godere, orgasmare, lo dico apposta perché questi due giorni che becco insulti invece dai difensori del canone in bolletta Rai, è il Consiglio di Stato che ha smontato il decreto esecutivo sul canone Rai in bolletta. Ieri mattina sono stato protagonista ai microfoni di Radio 24 di uno un confronto ruvido con il scritto Giacomelli, che mi trattava con grande umoristica superficialità, dicendo praticamente sei un povero spostato, ma cosa dici, non l'ha affatto smontato. Invece l'ha smontato il Consiglio di Stato, perché c'è scritto che nel decreto non è chiaro né chi la deve pagare, né come la deve pagare, né su che asset la deve pagare e su quali altri no. Non c'è scritto che non ci sono garanzie sulla privacy nel trasferimento dei dati dalla RAI ai gestori all'Agenzia delle Entrate, ai gestori elettrici e così via. Insomma, in parole povere, li hanno smontata questa roba qui. Allora, loro possono dire quello che vogliono, possono sorridere, possono dire che comunque andranno avanti, ma questa vicenda, cari ascoltatori, bisognerà che ce lo teniamo bene in testa, provocherà centinaia di migliaia di ricorsi, mentre la linea dello Stato loro è intanto pagate, poi si vede. Questa è la cosa: o la capite e vi attrezzate, oppure se allargate le braccia dicendo che è colpa di chi lo evadeva prima, siete proprio rassegnati a farvi fare di tutto e di peggio. Questa è la mia opinione, proprio chiara così, perché ieri la reazione del governo, in buona sostanza, di dare al Consiglio di Stato dei cretinetti è esemplificativa di tutta questa vicenda. Ripeto, una pretesa che nasce come tassa per un servizio, che poi diventa imposta patrimoniale su dei device di autoricezione, che viene annegata in una tariffa con una sanzione penale fino a 4 anni di arresto per la dichiarazione giurata, che dica Giacomelli, non è vero che è il regime generale delle autodichiarazioni, perché con lo stesso modello dell'Agenzia delle Entrate che voi utilizzate, ve l'hanno offerto loro per fare la comunicazione, per fare invece lo utilizzate ordinariamente la dichiarazione dei redditi, per ammontare di questa cifra stiamo parlando di 100 euro l'anno, col cazzo che ci sono 4 anni di galera. Quindi non è vero quello che stava dicendo Giacomelli. Se vi fa specie che io lo urli è perché sono convinto che i giornalisti devono essere capaci anche di smentire i politici quando dicono una cosa per l'altra. Vabbè, però adesso arriveranno rinforzi al Consiglio di Stato, no? Certo. Mi pare di capire, sì, però, qualcuno a dirigere il traffico al Consiglio di Stato però arriva, diciamo. La settimana per un liberista da questo punto di vista è stata qualche piccola soddisfazione ogni tanto. Viva il Consiglio di Stato. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, cari ascoltatori di Radio 24. I compari dei conti della Belva tornano a salutarvi da parte di Oscar, Renato, caro Alberto e Mario. Eccoci qua. Allora, chi si candida a sintetizzare in 20 secondi che cos'è Atlante e quali sono i fini dichiarati? Non facciamo la classe di Giannino Stompani. No, vabbè, i 20 secondi è un veicolo partecipato dal sistema finanziario italiano con un patrocinio / orchestrazione di Cassa Depositi e Prestiti, che in prima battuta ha lo scopo di fare sì che vada a buon fine l'aumento di capitale di Popolare Vicenza e Veneto Banca, quindi allargare i consorzi di garanzia, e poi inopinatamente anche quello di togliere una parte rilevante di sofferenze bancarie, la tranche mezzanina, perché in questa maniera si può arrivare a vendere le tranche senior che sono garantite dalla garanzia statale, dalle famose GACS. Questa è la sintesi estrema. Ci riprovo io? Serve a dire che il mercato in Italia non funziona perché fa i prezzi, come dire, di mercato. Ma come si permette il mercato di fare i prezzi di mercato? I prezzi li fanno i consiglieri, fanno le locuste. I fondi esteri che vogliono fare la cuccagna, dice Buzzetti. le normative europee prevedono che se una banca è in difficoltà segua un percorso molto preciso. Ma sono regole sbagliate, Carlo Alberto, cioè, è esattamente ovvio. Le regole ce le rifacciamo perché noi, le ma la Banca d'Italia si è impegnata contro quelle regole. Perché il problema delle banche italiane è il traffico. A questo punto ci arrestano, ragazzi, ci arrestano. A questo punto lo faccio io la... Cioè, ci sono degli amici che sono in difficoltà, gli amici vabbè, ci arrestano proprio. Allora, cari ascoltatori, come si è capito? Dunque, questo è un intervento che deve essere privato e il ministro Padoan e la Banca d'Italia ci tengono a sottolineare che è tutto privato, è uno sforzo volontario che è nato la convergente volontà di alcuni grandi banchieri italiani che hanno detto effettivamente questo aumento di capitale che sta arrivando alla Popolare di Vicenza qui non si copre, Unicredit è esposto, ragazzi bisogna coprirlo. E in più c'è questo problemino che gli NPL, 360 miliardi lordi, più di 80 miliardi netti, mettetela come volete, prendete, misurateli come volete, visto che questi dati non bisogna neanche più citarli, però insomma sono tanti. Allora, di fronte a questo, questo veicolo, per carità privatissimo, privatissimo, nasce due terzi del suo, della sua dotazione di capitale volontà. Aria volontarissima, gli incontri non sono avvenuti al MEF come è evidente sotto gli occhi di tutti, ma che quando qualcuno è in ritardo nel fare il consiglio di amministrazione non è vero che il ministro Padoan dichiara alle agenzie che è nervoso, ma comunque detto questo, due terzi dei conferimenti servono per gli inoptati aumenti di capitale e un terzo serve, così ci è stato fatto capire, è vero ragazzi, se dico stupidaggini interrompetemi, per 30, intervenire 30%, non esageriamo, il 30% 70 e 30, sì, 70 sì, 30. Che è una ripartizione abbiamo bizzarra, appreso però. Anche in questi giorni che naturalmente però nella cioè, a poter candidarsi ad avere l'intervento sugli NPL sono i soggetti che partecipano ai conferimenti di capitale proprio quota, quindi significa che siccome leggete che alcune banche partecipano per 50 milioni e magari sono al picco degli NPL, hanno 50 miliardi di NPL, esatto, per esatto. Capire il rapporto pro quota cosa vuol dire, allora, che vendono le briciole. Detto questo, bisogna ancora capire la natura di questo veicolo, quindi a che tipo di leva si può davvero candidare. Dice il ministro ci sono 50 miliardi di NPL che verranno risolti, ma con questi soldi in campo bisogna capire qual è la leva secondo e quindi quale sarà la regolamentazione. Terzo, bisogna capire qual è la governance, chi decide cosa. Perché altrimenti il rischio che ci siano una camera di compensazione in cui sono le banche a decidere degli assetti di controllo attraverso gli inoptati delle altre banche è molto forte. Bisogna che questo sistema di governance non sia per niente pubblico, perché sennò l'Unione Europea ci dice guardate, è stato, e questo gli è abbastanza chiaro. Quanto dura questo veicolo? Quanto dura l'alterazione della valutazione dei prezzi di mercato sia dell'equity bancario, perché è chiaro che intervenendo sugli aumenti di capitale questo significa consentire aumenti di capitale a prezzo più elevato e determinarne una diversa valutazione in tutte le banche italiane, e questo riguarda anche gli NPL. Queste sono le tante cose che non ci convincono, però noi siamo in minoranza. Per capire invece perché questo strumento potrebbe essere la salvifica cosa che leggete sui media italiani, riflettiamo meglio e siamo in attesa di capire anche il decreto lunedì del governo nel quale si promette di abbattere i tempi di escussione degli NPL stessi. Ecco perché lì casca l'asino, se posso dire, perché tutto il business plan di questa cosa qui sta in piedi se si verifica questa condizione di riduzione sistematica e sostanziale dei tempi di escussione delle però garanzie. Quando il governo ha provato a dire che si abbattevano i tempi per scutere le case c'è stata l'insurrezione. E io me lo aspetto ancora, mi aspetto lunedì sera che tutto il paese aveva una levata di scudi contro l'idea che portar via le case alla gente, ma non è possibile, no? I capannoni alle imprese in difficoltà. Quindi quella promessa secondo me si basa su una cioè perché agli italiani dovrebbe piacere per dare una mano alle banche. Ah, quest'altra cosa, sì, appena scoppia la polemica vedrai. Però, aspettate, signori, ragazzi, i nostri dubbi sono dubbi che devono fare i conti con la realtà. La realtà è quella, signori, però intanto se andava storto il primo aumento di capitale, qua saltava tutto, altro che MPS. Questo è l'obiezione. Abbiamo con noi Camilla Conti, collega del giornale, nostra amica che stimiamo molto. E Camilla Conti ci ha invitato in questi giorni, ha invitato con i suoi pezzi, eccetera, eccetera, a ragionare, per così dire, cioè prima di sparare con le critiche vediamo un secondo le cose come stanno. Buongiorno e grazie Camilla di essere con noi. Buongiorno a voi. Intanto scrivo e da mercatista convinta, e tu lo sai perché mi conosci, certo, bene, quindi non ho mai difeso, cioè ho sempre difeso no. Capo, non ho mai difeso chi andava ma non mettere mani avanti, ti dico che qui bisogna ragionare cioè per fare capire a chi è a casa. Già prevenuta. Detto questo. Per rispondere brevemente poi faccio una premessa e poi arrivo al punto, cercherò di essere breve. rispetto a quello che avete detto voi 5 minuti fa, e quello che diceva Carlo Alberto per aiutare gli amici in difficoltà, per dare una mano alle banche, in realtà qua va ben distinto, perché da una parte c'è il governo, dall'altra parte ci sono dei soggetti che hanno aiutato il governo a risolvere un problema grosso, come dicevi tu, perché qua ci trovavamo alla fine del mese con una banca che rischiava di saltare, ed ha risolto due grossi pasticci che ha fatto il governo. Il primo pasticcio era il salvataggio delle quattro banche fatto a novembre, perché è vero che Guzzetti si scaglia contro, Guzzetti non solo lui, ma tutto il fondo Atlante contro i prezzi di mercato, c'è cioè il 18,4% delle sofferenze, ma quel prezzo lì non l'ha fissato il mercato, né Apollo, né fondi speculativi brutti e cattivi, l'ha fissato l'intervento del governo che ha fissato a quel livello lì il salvataggio delle quattro banche, e da lì siamo partiti. Mm-hmm. Quindi anche un fondo come Apollo, che doveva intervenire su Carige, ha detto: perché io dovrei pagare di più? Me l'hanno detto loro che devono essere prestate 18,4, quindi anche su questo antimercatismo e antigoverno più che antimercato. Primo punto. Secondo punto del perché sono arrivati a soccorso del governo, quindi più che un aiuto di Stato è un aiuto allo Stato, è perché poi si sono fatte la famosa bad bank risolta con le garanzie GACS. Anche questo non ha funzionato, non è bastato. Cioè, i grandi piani, i progetti, voli pindarici partoriti da Padoan, dal governatore di Banca d'Italia e dallo stesso governo Renzi, che ricordo si affida come consulenti per il sistema bancario a personaggi abbastanza non discutibili, però che insomma che non hanno un'esperienza molto molto ampia rispetto anche ad altri soggetti che invece si stanno impegnando su questo piano, sono arrivati loro. Il governo ha dovuto tornare a canossa da quelle fondazioni che per negli ultimi anni hanno detto devono uscire dalle banche, si devono giustamente diluire, devono diversificare. È andato lì e gli ha detto: oh, ma qua che facciamo? Qua salta tutto. E sono arrivati questi signori con grossi che hanno grande esperienza, diciamoci la verità, una grandissima esperienza. Sono d'accordo assolutamente con voi, che hanno e che hanno condotto il sistema bancario italiano al punto in cui è oggi, cara Camilla. Immaginate, assolutamente, hanno contribuito. Però in un momento di difficoltà di questo paese, dove appunto in ballo non c'è solo il futuro delle banche che vogliono, perdonate il francesismo, parare il culo a loro stesse, ma c'è anche un problema di sistema, perché sistema bancario vuol dire anche sistema economico, vuol dire anche imprese e prestiti alle imprese, andava trovata una soluzione. La soluzione è stata questa, i cui dettagli ancora, sottolineo, non sono molto chiari. Perché che ne dice a Padoan, che lancia, credo, un grande sommo dispiacere di Guzzetti, lancia proclami, 50 miliardi, ancora i dettagli non sono chiari, perché deve passare al vaglio tutto questo piano delle autorità. Ricordo a questo proposito che le autorità, cioè Draghi ieri, uno per tutti, ha detto che va incitata, cioè va promossa la collaborazione tra i maggiori stakeholders, intesi come governi, le banche, le autorità, gli investitori, per fare progressi al sistema bancario. È chiaro di così? Quindi le sponde di queste persone, che io in un libro, un ebook che ho scritto l'anno scorso, che ho ribattezzato gli orologiai, perché sono gli orologiai del sistema, sono anche a Francoforte. C'è un problema di fondo, secondo me, che qui si ragiona come se fosse un intervento del governo. Non è un intervento del governo, è chiaro che il governo ci sta dentro perché ne ha bisogno. Ma se ci pensava il governo, poveri noi, fortunatamente non l'ha studiato il governo. Hai ragione, è un intervento di supplenza al governo, e questo ti guarda che concordiamo assolutamente. È un intervento di supplenza al governo. Poi vi lascio liberi di insultare. Ma no, che volete. Fare solo una riflessione. Aspetta un secondo, facciamo prima le informazioni sul traffico, poi torniamo con te. Della belva. Qua, eccoci qua, tornati in diretta, cari ascoltatori. Stiamo parlando di Atlante, questo veicolo mitologico nato per sorreggere la volta un po' cadente del sistema bancario italiano in previsione di aiuti perdonatemi, aumenti di capitale che non sarebbero stati coperti, quella popolare di Vicenza, poi c'è Veneto Banca e così via. Nasce questo fondo di convergenza. Noi abbiamo molte cose che non abbiamo capito, la sua dotazione finanziaria, come possa fare a scalare questa enorme montagna, tra l'altro il credito deteriorato, come funzionano le regole di governance, chi prende le decisioni, quanto dura, quanto sarà profonda l'alterazione dei prezzi sia dell'equity che di attivi passivi delle banche italiane. Questo significa isolarsi dal mondo e significa voler detenere quote di controllo per molti anni anche del sistema bancario italiano in un veicolo che non ha uguali in nessun paese occidentale, e del resto invece con un meccanismo di smaltimento dei crediti deteriorati che ha un unico grande analogia al mondo, cioè quella delle banche di Stato cinesi, per essere chiari. Beh, detto questo, noi abbiamo dei dubbi, ma stiamo ragionando con Camilla Conti, collega del giornale, che ci ha spiegato, no, guardate, è un aiuto allo Stato, perché lo Stato ha fatto guai prima lui a novembre, e per fortuna che altri si mettono in campo. E andiamo avanti con il ragionamento, perché le informazioni sulle strade hanno interrotto Camilla, ma non aveva ancora finito. Prego, Cami. No, brevemente, volevo solo invitarvi a fare, ad allargare un po' l'obiettivo, cioè a partire da Atlante per vedere che cosa sta un po' succedendo nel sistema finanziario attuale, perché insieme allo studio e al varo, poi ci sarà per decreto ovviamente, di Atlante, è successa un'altra cosa. Cioè è successo che un signore, che è un editore, che si chiama Urbano Cairo, ha lanciato un'offerta pubblica di sottoscrizione su RCS, cioè sul Corriere della Sera. Questa operazione è assolutamente di mercato, perché sì, RCS è in mezzo ai debiti, la situazione non si sbloccava, stava trattando con le banche. Ad assistere, cioè a spingere, a supportare Cairo in questa avventura, è un altro grande vecchio della finanza italiana che si chiama Giovanni Bazzoli, presidente oggi emerito di Intesa San Paolo. Ecco, i due casi sono ovviamente molto diversi, perché intervengono su settori completamente diversi, cioè editoria e banche, però fanno parte secondo me di un disegno complessivo che sta cambiando, o comunque destinato a cambiare un po' la geografia dei poteri. Con cui si dovrà misurare questo governo. Però Camilla, io te lo dico chiaro, ma tu sei convinto che il grande professor Bazzoli, per carità, il vincitore storico rispetto a Geronzi, rispetto alla vecchia tradizione della banca commerciale, rispetto a Mediobanca e così via, è l'uomo dal quale possiamo aspettarci il nuovo mercato che funziona in Italia? Io lo dico con grandissimo rispetto nei confronti del professor Bazzoli, io non me lo aspetto molto, io mi aspetto che sia Messina d'Intesa che abbia detto, ragazzi, noi siamo creditori in RCS, un fracco di soldi visto il debito bancario, però preferisco un editore vero che arriva e smuove gli altri soci che altrimenti non si smuoveranno mai, tant'è che le CDA, quelli di RCS, hanno detto no, non è contrattata con noi l'offerta pubblica di scambio. Tu hai ragione nel notare che Intesa, Camilla, Intesa è il pilastro di Atlantic, parliamoci chiaro, però è un pilastro che se uno parla con gli operativi di Intesa, insomma, non proprio convinto di non rimetterci i soldi, perché una banca sana deve aiutare quella che dici tu, perché è la vecchia logica del sistema. Ma è una vecchia logica, Camilla, o è una nuova logica che porta al nuovo, secondo te? No, io credo che sia una logica ristudiata e aggiustata e adeguata ai tempi attuali. Alla domanda, ma tu credi davvero sia possa Bazzoli riuscire a cambiare o fare operazioni di mercato oggi per salvare tutta la baracca? Io ti dico che Bazzoli, ma ovviamente Messina, perché hai ragione tua, è Messina il braccio operativo, Bazzoli, gli stessi, con appunto banchieri anche come Messina, quindi illuminati che seguono poi il progetto dal punto di vista operativo, abbiano almeno un disegno che poi sia contestabile, perfettibile, sistemabile. Però tu dici il governo invece va a sbattere, questa è la differenza. Non c'è un disegno di lungo periodo. Dal punto di vista bancario qua non c'è tempo. Ma non è che non c'è tempo per salvare le banche e quindi salvare quelli che poi hanno preso i soldi con i bonus, non è questo il problema. Il problema è che non c'è tempo per salvare un sistema bancario che, ripeto, porta a dover, secondo me, salvare il sistema imprenditoriale ed economico del paese. Però Camilla, l'equazione per cui non si può andare avanti. Te la devo contestare questa equazione. Il fatto che si devono mantenere tutte le banche del paese, perché sennò il sistema bancario va male, è contrario, capito, alla fondazione dell'Unione Bancaria Europea, che invece vuole isolare ed eventualmente contenere ogni shock bancario singolo. Tant'è vero che la BRRD, la direttiva, serve esattamente a questo. Ma Atlante nasce per dire BRRD in Italia non si applica. Esattamente, nasce per negare l'idea di una risoluzione ordinata. Scusami, il sistema bancario si difende con l'innovazione e con il cambiamento organizzativo e tecnologico delle banche, non con la loro conservazione e con il preservamento delle tradizioni. Su via, vogliamo dirlo. Io difendo il banking, non le vecchie banche. Posso dirlo? In tempi di pace, in tempi di guerra, se ne salta una, poi è un casino per tutti. Ma non è vero, guarda che aspetta, fai rispondere Camilla. Siamo arrivati con le persone a fare la cosiddetta, quella che gli inglesi chiamano bank run, agli sportelli. Abbiamo visto cosa è successo dopo Etruria a novembre. E che cosa è successo? Si sono spostati. Si sono spostati. Bank run vuol dire che escono dalle banche. Aspetta, caro Alberto, ragioniamo senza sovrapporre le voci. Tanto anche dopo la pausa GR continuiamo su questo tema, sempre con Camilla e con un altro ospite. Vi faccio notare a tutti, sì, che il segnale che dà il governo col decreto è che praticamente il ristoro, anche Mario, senti, viene dato a praticamente più del 90% di coloro che avevano subordinate. Anche quello, la traduzione, caro Alberto, è la BRRD in Italia non si applica. No, però posso dire una cosa, questa cosa del ristoro semiautomatico o automatico è palesemente concordata con la Commissione Europea, cioè, che vuole dire agli italiani, hai ragione, eravamo in transizione, vi giocate il jolly, uscite dalla prigione, da qua in avanti tiriamo una riga e si procede. Ma aspetta, da qua in avanti tiriamo una riga dal primo gennaio, quando la BRRD è legge dello Stato. Esatto, questo è il ragionamento formale. Il ragionamento sostanziale è: cari italiani, never again, mai più, perché tanto il ristoro c'è per tutti, cioè è il paio dal punto di vista delle procedure di valutazione del rimborso di quello che Carlo Alberto diceva, la BRRD in Italia con Atlante non c'è, punto. Allora, è tutto discutibile, perché anche Atlante deve passare per il timbro delle autorità europee, quindi vuol dire che c'è qualcosa in profonda transizione. Io non lo so, anche a Bruxelles valutano che l'esperienza di novembre italiana è tale per cui la BRRD in Italia non vale? Non esiste. La BRRD verrà applicata perché è fondamento dell'Europa. Stiamo scherzando, ci rischiediamo le regole da soli, ma facciamo finta di niente. Poi posso dire, Atlante, secondo il mio umilissimo parere, che non conta nulla per definizione, servirà a evitare che la Popolare di Vicenza salti in aria, si faccia il bail-in sulla Popolare di Vicenza e un sacco di gente perda anche le mutande con i subordinati che hanno. Punto. Stesso discorso per Veneto Banca. Tiriamo una riga, da lì in avanti vediamo cosa succede. Io non vedo oggettivamente Atlante né impegnato su una significativa attività di rimozione delle sofferenze, perché è irrealistico, né diciamo impegnato, a meno che non ci spieghino come vanno a una leva elevatissima, con quale leva vanno. Infatti il ministro Padoan dovrebbe essere più prudente prima di sparare numeri, mobilizzerà 50 miliardi, calma. Quindi io vediamo, per me Atlante è un veicolo di brevissimo termine, di natura emergenziale, che lascia invariati i problemi e le criticità. Allora, qui ci sospendiamo, ascoltate il Giornale Radio, torniamo con Camilla Conte e poi anche con Maurizio Crema, proprio a parlare di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui tornati in diretta dopo il Giornale Radio, gli studi Milano di Radio 24, i compagni dei Conti da Belva che tornano a salutarvi insieme a me, Oscar, Renato, Carlo Alberto e Mario. Ed è collegata con noi Camilla Conti del Giornale, con cui abbiamo iniziato a riflettere con un controcanto da parte sua rispetto ai nostri dubbi, perché Camilla Conti ha detto sì, tutto quello che volete, intanto però l'aumento del Popolare di Vicenza, l'aumento del capitale rischiava di far esplodere il tutto, primo. Secondo, è un aiuto allo Stato, non è un aiuto di Stato, magari perché dopo i casini che hanno fatto a novembre si sono dovuti mobilitare dei vecchi registi, saranno vecchi, quello che volete, ma intanto si mobilitano perché sennò saltava tutto per aria e quindi in tempo di guerra meglio una soluzione piuttosto che solo delle chiacchiere. Tanti particolari che non conosciamo, su questo siamo d'accordo, sia Camilla che noi che critichiamo un po' di più, e dobbiamo vederli quando verranno chiariti. Anche Mario Seminerio dice: ma a me sembra lo strumento soprattutto per evitare l'esplosione degli aumenti di capitale vicini, che poi si ferma perché per le azioni di capitale i famosi 50 miliardi di smobilizzo dei crediti deteriorati annunciati dal ministro, ma come si faccia a fare 50 miliardi con solo un terzo della fondazione, della dotazione di questo fondo riservato agli NPL? Una domanda da non economista, sapete che quando parlate di banche io sto zitto. Allora, il moltiplicatore, però, se parliamo dei 50 miliardi di crediti deteriorati totali e li compriamo al 18%, esatto, me ne bastano. Esatto, è quello che si diceva prima con Oscar, ne bastano molti meno. Però Però, se il problema è che se li compri al 18% distruggi i bilanci. No, però, le banche vogliono che vengano comprati al valore netto di bilancio, cioè intorno a 50. Ah, okay. Cioè vogliono che gli venga rimosso 44-45. Esatto, senza danno patrimoniale. Okay, è vero che tu spendi molto meno del valore nominale, però alla fine il rischio è che Atlante si trova tali e tante perdite nel medio termine che deve a sua volta essere ricapitalizzato. 44 e esatto. Poi valgono, e dopodiché valgono 20 o 17,6. Cioè, diciamo, Mario si è occupato professionalmente, ricordiamolo a chi è in ascolto, esattamente di come si organizzano, no? Le cartolarizzazioni, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che per avere un'idea di smobilizzo complessivo intorno ai 45-50 miliardi, ricordando come funziona l'intervento, cioè sul mezzanino da parte, no? Perché c'è la parte signor su cui è assistita poi il GACS dello Stato, cioè la garanzia di Stato, ci sarebbe bisogno di una leva. Immaginiamo di partire da 2 miliardi, cioè un terzo del totale del fondo come massa di manovra dedicata al credito deteriorato. Se dovessimo prendere sul serio i 45-50 miliardi che dice il ministro, dovremmo immaginare che c'è una leva di quei 2 miliardi abbastanza, non elevatissima, ma comunque non bassa, Mario. Dovrebbe fare debito, Atlante dovrebbe fare debito tra i 15 e i 20 miliardi, emettere obbligazioni ma emettere obbligazioni poi comprate da chi? Da chi? Con quale rete? Gliele comprano le banche che gli hanno venduto le sofferenze. Capito. Quindi si autointossicano alla fine. Mentre invece se è un veicolo ordinario da questo punto di vista, di come è previsto nella nostra regolazione, sottoposto a vigilanza anche di Banca Italia, cioè una M, la leva è molto più bassa, cioè è di poco superiore all'unità, 1,2, 1,5, ma non può essere così elevata. E già quella non sarebbe elevatissima, però questo per far capire a chi ci ascolta che ci sono dei punti che non sono chiari, ecco, al di là di tutto. Allora, sentiamo un secondo Maurizio Crema, che è un giornalista del Gazzettino, che ha scritto un bel libro, secondo me, Bancarotta, dedicato esattamente alla ricostruzione storica, ma soprattutto di quello che è venuto in questi due ultimi anni in Veneto Banca e Popolare di Vicenza e tutto il complesso mondo dei piccoli imprenditori, artigiani, commercianti che a migliaia e migliaia erano clienti. Ricordiamo che sono due banche in cui da sole negli ultimi due anni, tra perdite inflitte ai loro azionisti rispetto al vecchio valore di libro del loro titolo ai livelli a cui sono arrivati adesso, e non hanno finito di perdere perché perderanno ancora di più con quello che succede andando sul mercato, sommando questo alle emersioni di perdite in conto economico arrivate loro malgrado, perché la vigilanza europea li ha costretti a chiarire quello che il regolatore italiano prima non chiariva nei bilanci di quelle due banche. Ecco, queste due banche da sole hanno creato distruzione di valore per 10 miliardi in due anni, sommando queste poste qua. 10 miliardi concentrate su un paio di centinaia di migliaia di azionisti, di cui la stragrande maggioranza appunto stavano in Veneto. Allora, io oltre a ringraziare Maurizio Crema per questo libro che ha scritto, che segnalo a tutti i nostri ascoltatori, chiedo, le antenne tue dicono che questo strumento nuovo che nasce soprattutto per evitare un'altra esplosione nucleare nell'aumento di capitale della Popolare di Vicenza, lì, da quelle parti lì, come è presa questa proposta? Tanto buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come è presa? Come la ciambella di salvataggio, diciamo così, grande sospiro di sollievo dalle parti di Vicenza e se anche dalle parti di Montebelluna, cioè le sedi centrali delle due banche che hanno creato questo problema e hanno messo in crisi anche il governo. Non è inutile nascondersi, spero che tu l'abbia anche detto prima in trasmissione. Senza l'intervento di Atlante l'aumento di capitale di Vicenza sarebbe stato molto difficile, per le grosse preoccupazioni, e soprattutto il più preoccupato era Unicredit. Che doveva garantirne il 100% col punto del consorzio e poi la consolidava. Se l'amministratore delegato di Vicenza Iorio dice tranquillamente off the record io c'è un contratto scritto, questi devono garantire. Ghizzoni ha altri problemi, insomma, perché imbarcarsi il 1,7 miliardi dell'aumento di capitale e incamerare tutte le azioni di Vicenza dell'inoptato sarebbe un grosso problema per tutti gli indici di solidità del primo o secondo gruppo italiano, insomma, che E quindi secondo me il Fondo Atlante alla fine sistema, come hanno detto anche i tuoi esperti, interlocutori, lì, sistema un problema subito, sistema due problemi perché sistemerà anche Veneto Banca. Dopodiché si vede. Dopodiché si vede. Però intanto, senti, io voglio congratularmi con te perché, se mi permetti, avendo portando io i graffi sulla faccia anni fa che mi fece Zonin, io ho praticamente apprezzato che nell'uno dei capitoli finali del tuo libro tu lo ammetti, lo dici, ma io stesso come giornalista devo ammettere, non è che sia stato immune dal fascino che esercitavano Zonini, Consolo, il capo dal basso, che aveva una storia più affascinante per me, Consolo, quella di Zonini, il capo di Veneto Banca, quella di Zonini, ai miei occhi non ha mai avuto niente di affascinante. Però detto questo, mi piace il fatto che ci sia dei pezzi di informazioni che, cioè, ammetta che noi stessi abbiamo commesso degli errori gravissimi, cioè noi siamo stati proni e supini per tanti anni a non vedere tutto quello che era abbastanza, perdonami, un po' evidente nell'atteggiamento che c'era, nella disinvoltura dei conti, nel dire le banche territoriali quando poi si facevano fare alle banche che servivano alle proprie aziende in Sicilia, sto parlando di Zonin e così via. E quindi a me piace che ci siano colleghi come te, per questo dico, quel libro mi è piaciuto proprio per questo, mi è piaciuto perché racconta fuori dai denti anche il coinvolgimento di troppi imprenditori di Confindustria di prima fila. Vogliamo dirlo che era un sistema totalmente connivente alla radio di Confindustria, e diciamo, poi si incazzeranno, però posso farti una domanda? All'apprendere la lista di coloro che hanno votato contro, l'ANSA ieri ha dato molti nomi e molte società, per l'azione di responsabilità, la Popolare di Vicenza, Antenne in Città cosa dicono? Nessuna sorpresa? No, soprattutto amarezza. L'amarezza, hai capito, di avere l'idea ancora una volta di essere stati gabbati in qualche forma, no? Inviscati in una tela. Che certo, Dolcetti in assemblea aveva detto: attenzione, fare subito l'azione di responsabilità prima dell'aumento di capitale della borsa avrebbe provocato altri sconquassi dal punto di vista reputazionale e via così. Già. Ma io non sono molto d'accordo, perché secondo me è un modo per attirare nuovo capitale, far capire che chi ha il capitale oggi dice facciamo pulizia. Io credo il contrario, che a non farla l'azione di responsabilità, chi stava valutando di entrare dice no scusate, io in quella compagine non ci entro. Non ci posso entrare. Però sono d'accordissimo con te, l'ho anche scritto, perché secondo me era un atto di coraggio. Io da un certo punto di vista credo che il presidente Dolcetta sia un uomo coraggioso, un grande imprenditore, uno con gli attributi, come si direbbe in altri campi, no? A me piace molto come persona e si è messo anche in una partita difficilissima, però qui ha mancato di coraggio, secondo me invischiato anche lui dal problema che in CDA c'era ancora una maggioranza vecchio stampo. È così, ohimè è così, e questo spiega perché abbiamo dei dubbi noi sul fatto che poi resti un po' troppo la difesa del controllo anche con Atlante. Però tu dicevi adesso? E adesso per esempio è entrato Panis, no? L'avvocato di Berlusconi è entrato in CDA per dire grande cambiamento. Sì, appunto. Adesso non so cosa c'entri un avvocato penalista con una banca, forse se tutelerà in futuro per eventuali può centrare benissimo, diciamo. Esatto. Allora torniamo, abbiamo un minuto di informazione stradale. Della belva. Allora, ancora un blocchetto dedicato all'Atlante, il salvabanche, i nostri dubbi che abbiamo espresso, le considerazioni di realismo, i Camillo Conti che con noi del giornale che dice sì, però ragazzi, altrimenti se andava a sbattere esplodeva tutto, è un aiuto allo Stato che ha fatto guai, non di Stato, le considerazioni di Maurizio Crema, l'autore di Banche Rotte, dedicato al Popolare di Vicenza e Veneto Banca, la storia di che cosa le ha portate al collasso, visto che è questo collasso per evitare il quale, con un'esplosione nucleare, con un aumento di capitale in che nasce Atlante. Però noi abbiamo anche il dovere di dirvi che, insomma, le valutazioni che ci sono sugli effetti di questo aumento di capitale che finirà nella pancia di questo Atlante e che ne amministrerà quindi il controllo della banca, non sappiamo il nome per conto di chi e con quali criteri, questo prima di giudicarlo ce lo dicano, però per il momento punto interrogativo. Non c'è un paese occidentale in cui gli asset di controllo delle banche vengono messi in pancia delle stanze di compensazione, però quell'aumento di capitale, anche con l'inoptato nella pancia di Atlante, non ridà valore positivo alla banca. Non so se è chiaro, cioè, ricordiamo Carlo Alberto è stato Mediobanca, Mediobanca ha fatto una valutazione e che, ha detto che dice che post aumento di capitale la banca vale 1 miliardo e 100, cioè un terzo in meno dell'aumento di capitale, un terzo in meno. Cioè, allora noi, la nostra preoccupazione è che se mai ci mettiamo in testa di dover pensare al recovery prima del bail-in, e continuiamo a ripetere pezze a colori per evitare il bail-in, non se ne esce dal vecchio sistema. Il punto è che noi dobbiamo spiegare agli italiani che le banche sono troppe di numero, uno, due, hanno dei sistemi di gestione che non esistono, sono poco capitalizzate, basta con giornali che continuano a scrivere che è un'ossessione dell'Europa la capitalizzazione del... Io ho letto in questa settimana un pezzo, l'ha scritto Osculati, in cui diceva addirittura che le sofferenze sono la vera forza delle banche italiane, che devono restare sui libri delle banche italiane. Le sofferenze non so che dirvi. È cosa nostra le sofferenze, ragazzi, capitela. Sono follie. C'è anche un sms qui importante, caro Oscar, ma le sofferenze bancarie dopo che fine fanno? E giustamente poverine vanno tutelate. No, non che fine fanno, cosa fanno? Dove si recano? Cosa le fanno? Le condizioni? Prendono il bonus 80 euro. Trovano l'apo che le ricondiziona. Sentiamo prima, sentiamo qualche ascoltatore, poi torniamo con due considerazioni finali, una di Maurizio e una di Camilla. Antonio da Roma, prego Antonio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Senta, io sono un semplice risparmiatore pensionato e sentito dire in questa formazione, creazione di Atlante, che ci debba intervenire anche la Cassa Depositi e Prestiti. Sì. Non so, credo conferma a voi. Sì. Chiedo conferma a voi. In tal caso io comincio a essere un po' preoccupato anche da pensionato risparmiatore, perché la sento spesso in queste circostanze, tipo l'Alitalia una volta, che interviene anche la Cassa Depositi e Prestiti. Non sarà che, e questo vi chiedo il parere a voi, non sarà che la Cassa Depositi e Prestiti è un po' magari adesso ritenuta e presa come un pozzo di San Patrizio? Ma no, ma cosa va, che cosa va a pensare? Lasciamo finire Antonio. Allora, fine domani Antonio, sentiamo Maria Teresa da Roma. Maria Teresa, prego. Anche per me c'era questo questa domanda, perché io credo che la Cassa Depositi e Prestiti in qualche modo verrà a limare quelli che sono i nostri poi risparmi e interessi. Io non so come fanno a prendere a destra e a sinistra, da dove. Ma state sereni, ma state sereni, ma perché fate questo? Rispondiamo seriamente, non facciamo gli ironici. Dai, ricordiamo che Cassa Depositi e Prestiti ha appena chiuso un bilancio. Con quante erano le perdite, Mario? Non lo so quante erano le perdite. 900? 900. Per la svalutazione della quota ENI. Per la svalutazione della quota ENI. Sai per mo ENI. Eni, la valutazione. Siccome è la quota posseduta, gli abbatte il valore. I conti veri dell'operazione spericolata Saipem li facciamo più Saipem avanti, dopo, per così dire. Però anche lì ci stanno rimettendo. Allora, questo punto dei nostri ascoltatori è un punto di una certa rilevanza, per così dire, perché Cassa Depositi e Prestiti c'è, per far capire, non è pubblica come è noto per accordo europeo, sta fuori. C'è non poco, all'inizio si era detto 200-300 milioni, secondo quello che capiamo dai giornali è almeno mezzo miliardo, si è arrivati al mezzo miliardo, perché mi pare che c'è anche qualche problema nel fare crescere i conferimenti, c'è qualcuno che non è convinto, alcune fondazioni per esempio non hanno ancora deliberato, facendo un po' arrabbiare il presidente dell'ACRI, perché aspettano di leggere il decreto e se ci sono anche incentivi fiscali a chi conferisce. Un fondo pensione ha detto di no, Cometa fondo ha detto chiaramente. Meno male. Cometa, quindi stiamo parlando di Metalmeccanici della Fiom, ha detto no. Però i nostri ascoltatori secondo me non sbagliano. Allora Camilla, io faccio un'altra domanda a Camilla. Tu non sei un po' preoccupata di che cosa succede in un sistema in cui il controllo, se si dice signori non andate al bail-in, Popolare di Vicenza, Veneto Banca e così via, e il controllo di quella banca rimane in mani che non sappiamo quali siano, tu ti aspetti che siano migliori mani di quello che accadrebbe se l'aumento di capitale fosse lanciato a forchette troppo basse e arrivassero i fondi cattivi americani, oppure se entra in questa camera di compensazione di cui ignoriamo i meccanismi, ma insomma io mi aspetto che chi ci ha messo più soldi comandi, detta fuori dai denti, quindi torniamo sempre lì a Bazzoli e Guzzetti. Questa domanda è impropria secondo te, Camilla? No, la domanda non è impropria. La prima risposta è che sono preoccupata a prescindere, perché io sono sempre preoccupata per quanto riguarda il sistema bancario. La terza risposta si spezza in due, nel senso che CDP, se si fosse mossa da sola, come si è temuto a un certo punto, e da lì erano partiti anche dei fondi dello stesso Penati, che ricordiamo gestirà l'SGR, che poi Alessandro Panatti, che è un economista ma anche un editorialista di Repubblica, e lui si era scagliato contro l'intervento di CDP sulle banche, sì, e poi ha fatto quello che ha fatto insieme a Guzzetti, sì. Se si fosse mostrato solo, appunto, non avrebbe avuto le munizioni per farcela, assolutamente. Il ruolo di CDP certo è preoccupante, ma ripeto, è necessario. E qua mi riaggancio al tema che dicevi tu prima, cioè del never again, e il tema anche che diceva Carlo Alberto, perché in Italia non ci può essere un bail-in. La risposta, secondo me, è che in Italia un bail-in non lo sapremmo gestire. C'è in Europa e anche a Francoforte, non è casuale l'intervento di ieri di Draghi a sostegno di Atlante, hanno capito che se qua salta una banca, veramente scoppia la guerra civile. Cioè, in un mondo normale, tutti i ragionamenti che avete fatto voi, attenendovi giustamente, ci sono delle regole da rispettare, hanno senso. In Italia no. In America, nel post 2008, ne hanno fatto fuori quasi 500 di banchetta locale. Non è successa la rivoluzione. Non è successa la rivoluzione, era anche un altro periodo storico, adesso è un contesto completamente diverso. Parliamo anche di una banca, appunto, come la Popolare di Vicenza, e poi a cascata. Ho capito, però l'idea è. Aspetta, Camilla, aspetta. Questo io ti seguo, però ti faccio un'osservazione. Se l'idea è, guardate che è sempre c'è il bail-in dietro l'angolo, e qui non si può fare. Ma mi spieghi qual è il meccanismo di induzione di chi è alla guida delle banche di fare quello che viene prima del bail-in, cioè la recovery, avere i conti, le buone capitalizzazioni, non fare prestiti agli amici degli amici, non avere un terzo o un quarto del capitale, perché questa è la situazione in Popolare di Vicenza e in Veneto Banca, un terzo o un quarto del capitale che Banca Italia gli ha tenuto per anni, quando invece non andava tenuto, perché il capitale finanziato con i propri soldi e i propri clienti, quello bisogna detrarlo dal capitale della banca, dal patrimonio di vigilanza, e invece è andato avanti così per anni e anni in Italia. Mi spieghi qual è l'incentivo al management bancario se una volta che c'è lo scudo di garanzia tanto il bail-in non c'è? Io questo un po' che non capisco. E io li ritorno sull'emergenza, hai perfettamente ragione, l'incentivo non c'è, però c'è anche un cambiamento in atto, perché se tu guardi le ultime assemblee delle banche, anche di quelle grosse, vedi che la presenza dei fondi stranieri UBI, è preponderante, sì. UBI. Rispetto, ma non solo UBI, anche Intesa, anche Unicredit, certo, sì. Cioè ci sono i fondi speculativi che sono, tra virgolette, strozzini, come li ha ribattezzati Messina per il tema del prezzo delle sofferenze. Non esistono gli strozzini. Non ho detto che condivido, ho riportato le dichiarazioni, sì, di Messina. Poi ci sono i fondi di investimento stranieri, soggetti stranieri, che sono benvenuti nel capitale delle banche, cioè il poco di sbarramento, certo, che il sistema. Quindi tu dici, cioè, con un po' di tempo la trasformazione avverrà. No, ma è già in atto, cioè le barricate alzate dal sistema non sono contro fondi speculativi, giusto o sbagliato che sia. Va bene, ma non allora noi abbiamo voluto oggi proprio. Posso dire solo l'ultima cosa al volo? Come no? Dello Hai Zoc. Citato MPS, voglio vedere come si fa cattiva. Lì con la. No, torno cattiva e torno molto cattiva. Faccio notare che nei verbali dell'Assemblea della Vicenza, da cui sono emersi chi ha votato contro, chi si è astenuto all'azione di responsabilità, tra gli astenuti c'erano anche generali e cattolici. Come no? Se avessero votato a favore, avrebbero portato la quota di favorevole all'azione di responsabilità al 38,05, quindi la maggioranza. Sì. Generali e cattolica saranno chiamati a intervenire nel fondo Atlante, quindi o è un contrappasso da pagare oppure c'è qualcosa che nel meccanismo non funziona. E non lo so se non funziona, perché aspetta, loro da una parte danno quel segnale e per coerenza in maniera opaca determineranno i nuovi asset di controllo della banca. Funziona benissimo invece. Purtroppo sono due orme ma in una stessa direzione. Dunque, le sofferenze continuano a lavorare sotto traccia, a scavare, a fare marcire il sistema, mentre a Roma si discute, Sagunto viene spugnata. Hai ragione. E c'è modo di toglierle, perché qualcuno pensa che da 17-18 possano arrivare a 40-45, cambi idea, se la faccia passare, perché qui il bubbone tornerà tra non molto. Però questo io, o hanno un'arma segreta che ci sveleranno per arrivare a quello che dice il ministro, o non si capisce, ed è quello che dici tu. Allora, Maurizio, a Vicenza, non dobbiamo adesso fare la sintesi del perché per 20 anni Zonin ha comandato, ma di fronte all'idea che i nuovi asset di controllo della banca verranno determinati in questa grande stanza di compensazione, i sostenitori tradizionali di Zonin della città sono contenti o no? Secondo me sono orfani, soprattutto. Sono orfani di un sistema di potere che in qualche maniera ha tutelato, come hai detto anche te prima, giustamente, tanta gente, insomma. Lui aveva sotto il suo tallone, teneva molte persone, ma in qualche maniera aveva creato una corte che che riusciva a tenere sotto controllo, anche perché questa quota, le componenti di questa quota ne beneficiavano. Secondo me il problema che abbiamo tutti, perché non è soltanto una questione di Vicenza, è che stiamo vivendo e stiamo operando in un sistema che in teoria non ha più un momento non ha più reti di protezione, perché è arrivata la BCE, sono state svelate, ma non riusciamo ancora a viverci in mezzo. Cioè, le banche adesso non sono ancora attrezzate per questo tipo di operazione senza reti, senza protezione. Ma, e in più Maurizio, dorme che da metà del 2013 sapevamo che arrivassero. Che dica Patuelli e l'ABI e l'eroica battaglia di cui non abbiamo mai avuto traccia pubblica delle Banca Italia che lottava contro la BRD. Ma hanno votato tutti all'unanimità riforma, quindi cioè, compresi tutti i nostri deputati europei, compagnia cantante. Sì, ma il problema è proprio questo. Cioè, tu dici giustamente, come può cambiare questo sistema? Allora, secondo me la bastonata di questi mesi, di questi anni, funziona soprattutto per i risparmiatori e i clienti. Adesso la gente in qualche maniera non può non informarsi, perché comincia a capire che ne va anche del suo conto corrente, delle sue tasse. Capisco quello che dici. Poi c'è una questione dell'informazione, tu giustamente dici, sempre stato un problema nostro di opacità o in qualche altra maniera di affascinazione, cioè, ma sappiamo qual è il problema dell'informazione in Italia, per cui... Però anche lì c'è una battaglia, e poi c'è una borsa e un mercato che obbliga, la BCE di fatto ha obbligato sia Vicenza che Veneto Banca ad andare in borsa. Questo da un certo punto di vista è forse il passaggio fondamentale per cercare di dare trasparenza, perché se tu vai a vedere nei siti delle banche, e non è semplice, tu lo sai meglio di me, devi iniziare a fare lo slalom, fare mille cose, però adesso vengono fuori tutti i soci che sono in assemblea, allora, che votano allora, a favore, io collegio sindacale. Io ringrazio anche te Maurizio, perché anche Maurizio Crema dice, guarda al momento, intanto ci sono 10 miliardi di botta che sono stati concentrati qui tra Veneto Banca e Vicenza in questi due anni, quindi non poco, quindi queste robe mettono in moto delle catene oltre alle regole comuni, e il bail-in non siamo ancora in condizioni di arrivarci. Vedremo, noi continueremo a tenere un cantiere aperto di riflessione. Si sono spostati 50 miliardi in tre mesi da una banca all'altra, non è successo niente, l'Italia va avanti, c'ha 4.000 miliardi di ricchezza finanziaria, francamente che tutta questa cosa faccia scoppiare il sistema non lo vedo. Gli italiani sono adulti e spostano i propri soldi sono da una banca all'altra. Sono adulti? Beh, diciamo addirittura decrepiti, se posso dire. Il problema è un popolo molto maturo, ma sono marcio. Gli assetti di controllo, non gli italiani, la questione ecco, vera. Allora diciamoci la verità, la scusa del bank run, cara Camilla, mi spiace, non la compriamo, non c'è nessun bank run, il sistema italiano nel suo complesso ha tutte le caratteristiche per reggere, mi spiace che andiamo a indebolire invece le banche buone, le banche che hanno fatto le scelte corrette. Cioè queste quelle il cui premio che avevano sul mercato in questi mesi, di fronte al fatto che gli altri andavano peggio, avevano un premio nella loro valutazione, perché avevano meno rischio degli altri, quel premio verrà meno. Questo, fossi azionista di Intesa, non mi piacerebbe, a dire la verità, non mi piace. Però questo cantiere riapre quando ci fanno capire meglio i particolari. Intanto torniamo tra un minuto e facciamo una riflessioncina, quindi grazie a Camilla Conte e grazie a Maurizio Crema. Ricordo Bancherotta, il suo libro da leggere per approfondire la crisi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Torniamo tra un minuto con una riflessione su questo provvedimento che è venuto in settimana sul part-time agevolato a chi ha 63enne, è un dipendente privato a tempo pieno, è un contratto a tempo determinato e c'è un aiuto di Stato. E la nostra domanda è: perché? A cosa serve? Radio 24 sulla rotta dei migranti, con Papa Francesco alle porte d'Europa. L'isola di Lesbo è il capolinea meridionale della rotta balcanica. Migliaia di persone hanno sfidato il mare in condizioni di precarietà per raggiungerla. Papa Francesco l'ha scelta per rilanciare il suo appello alla solidarietà e all'accoglienza. Radio 24, ancora una volta sulla rotta dei migranti, vi accompagna in questo storico viaggio. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in diretta con i compari Conti la Belva che tornano a salutarvi. Oscar, Renato, Carlo Alberto e Mario. Allora, domanda, cari ascoltatori. In settimana è arrivato il decreto attuativo di uno dei due punti sui quali nei leggi di stabilità il governo Renzi aveva accettato di mettere mano al cantiere pensioni, che è sempre aperto, sempre interventi all'altra, eccetera, eccetera. In attesa che a fine anno, dice il governo, si metta mano a una revisione generale dei tetti previdenziali proposti dalla riforma Fornero. Noi qui siamo contrari, ma questa è la promessa del governo. Vedremo. Il governo dice senza fare deficit aggiuntivo, cioè accettando l'idea di spalmare per quanto prima si va in pensione rispetto ai tetti della Fornero perdite proporzionate agli assegni che si incassano, in maniera che in termini attuariali il montante spalmato in più anni, il montante che si è versato spalmato in più anni dia sempre la stessa rendita, però questa roba è chiaramente non è nelle intenzioni dei proponenti, non è nelle intenzioni dei sindacati, neanche del presidente dell'INPS Boeri. Quindi loro vogliono più deficit. Ma in questa settimana arriva la seguente misura: chi compie chi ha 20 anni di contributi versati, è un dipendente privato, è un contratto a tempo determinato, a tempo pieno, e matura i tetti previsti dalla legge Fornero entro fine 2018 per andare in pensione, intanto può da subito trasformare il suo contratto con la sua azienda in part time e avere a quel punto non solo la retribuzione del part time, ma l'equivalente dei contributi che l'azienda avrebbe versato se il suo rapporto fosse rimasto come prima in busta paga e tasse, e in più lo Stato che gli paga i contributi figurativi. Non glieli paga, i contributi figurativi significa che vanno in deficit, ma comunque lo Stato che copre i contributi figurativi come se il suo rapporto rimanesse a tempo pieno. E questa misura viene presentata come una specie di agevolazione al prepensionamento e anche con finalità per l'occupazione. Noi non capiamo né la prima né la seguente cosa, e allora abbiamo chiesto a Giuliano Cazzola di spiegarcela. Cioè non riusciamo proprio a capire qual è la filosofia di questo intervento. Repubblica ha detto si applica a 400.000 persone. Cari colleghi di Repubblica, la dotazione di soli 60 milioni levatevelo dalla testa, forse anche l'informazione dovrebbe smetterla di fare propaganda, ecco, o imparare a fare le divisioni. Oscar, sono in conflitto di interessi. No, ma però, dai, perché sei in conflitto di interessi? Di 63 anni, no, ecco, non ce l'hai 63 anni. Perché su questa cosa qua ne ho anche scritto ed è una mia vecchia teoria di quella di trovare una way out per gli anziani che sono ancora in azienda. Con il part time aiutato di Stato? In un paese che non ha fatto un intervento per la povertà? No, la mia proposta era diversa, cioè? Era quella di dire che l'azienda paga la pensione, lo Stato non paga nulla. La pensione è defiscalizzata, quindi lo Stato risparmia la pensione e l'azienda paga i soldi che pagherebbe lo Stato di pensione. Beh, questo va bene per il fine anno, vediamo, perché tu dici le aziende che hanno interesse comunque a, tra virgolette, abbassare l'età media dei loro dipendenti. No, anche se io ti dirò, non credo all'effetto sostitutivo che assumono i giovani, no, perché le aziende vogliono qualità già formate, quindi non vogliono i giovani. Io lo vedevo invece come utilizzo delle persone di una certa età, un po' quando fanno lavori usuranti che spesso non riescono a fare per tutto il giorno, e un po' per un discorso di tutor, quindi di aiutare i giovani che entrano in azienda. Vabbè, io invece non riesco a capire. Giuliano Cazzola ci spiega, grazie di essere con noi innanzitutto, ma ci spiega la ratio, come è nato sto provvedimento, che effetti potrà avere, lei che ne pensa? Allora guardi, le cose che avete detto sono assolutamente esatte, anche quelle che ha detto il suo collega, diciamo, sono per esempio previste nella legge Fornero con l'istituzione dei fondi di solidarietà. Condizionalità che sull'esempio dei fondi bancari potrebbero anche diventare il parcheggio di lavoratori vicini alla pensione con l'accompagnamento alla pensione obbligatoria da parte delle aziende che pagherebbero loro, appunto, anticiperebbero loro la pensione. Ma ciò detto, il problema secondo me è che noi mischiamo, e l'ha fatto anche la stampa, mischiamo magari le mele con le pere, perché questa misura non è, secondo me, un sostitutivo della flessibilità in uscita a cui aspira Boeri e compagnia cantante, aspirano Boeri e compagnia cantante, ma è una forma di invecchiamento attivo, una forma di invecchiamento attivo che probabilmente guarda anche a soggetti diversi, perché secondo me è diverso il caso di uno che vuole andare in pensione il più presto possibile da uno invece che vuole continuare a lavorare, magari alleggerendo il suo impegno senza rimetterci troppo sul versante dello stipendio e senza rimetterci nulla sul versante della pensione. Quindi io metterei la cosa un po' da questo punto di vista. Detto poi fra noi, secondo me oltre alla pochezza delle risorse stanziate, c'è un limite di fondo. Il limite di fondo è l'accordo con il datore di lavoro. In una situazione nella quale diciamo gli organici sono all'osso, le aziende sono uscite dalla crisi con alleggerendosi il più possibile della forza lavoro, io credo soprattutto nelle piccole fabbriche, se un lavoratore va a chiedere al suo datore di lavoro di lavorare a metà tempo, lui non ha dei grossi oneri il datore di lavoro, però di lavorare a metà tempo, e probabilmente questo gli dice di no. Per cui io credo che una forma sperimentale di obbligatorietà, magari nelle imprese con un certo numero di dipendenti, sarebbe stata molto più utile. Io faccio notare invece che il Jobs Act, io sono d'accordo con lei che non c'è nessun automatismo fra il part-time e l'assunzione di giovani, soprattutto quando le dimensioni sono così ridotte. Poletti parla di 30.000 ed è, secondo me, un dato ottimista, no? Ma c'è invece nel Jobs Act una forma di part-time che è legata a un contratto, quindi a una negoziazione sindacale di solidarietà espansiva, finalizzato all'assunzione di giovani fino a 29 anni, per di più anche con un'agevolazione contributiva. Secondo me sarebbe questo uno strumento molto più utile di quello contenuto nella legge di stabilità, e mi stupisco, mi domando perché nessuno ne parla, perché nessuno si cimenta con questa forma che secondo me è più produttiva. Ah, ecco, questo per esempio, io me l'ero dimenticato, adesso che cazzo l'ha citato, e io invece ce l'ho nelle cose, nelle schede della legge. E dire naturalmente, che faccio l'imprenditore dovrei saperlo. Ecco, e dire che fai imprenditore quindi dovresti saperlo. Ma però una piccola idea di cattiveria su dove potrebbero andare a finire questi pensionati, e chi potrebbe avere questi pensionati, tipo quelli che mettono dentro i soldi in Fondo Atlante. No, adesso non colleghiamo, diciamo, non fare battute su questo, perché noi dobbiamo rispettare tutti coloro che ci ascoltano. Il tema, guardate, del lavoro e della pensione, per esperienza, fidatevi di me, è un'esperienza al cui confronto l'arrabbiatura di chi ha preso fregatura delle banche è niente, perché noi non facciamo altro che alimentare incertezza permanente negli italiani su questa storia delle pensioni e del lavoro. Sì. Cioè, questi interventi a pioggia ogni settimana producono un effetto di instabilità psicologica che è terrificante. Naturalmente non voglio dire che la crisi e la bassa occupazione e partecipazione al mercato del lavoro nascono da questo, però certo non aiuta, questa è una cosa sicura. Io ringrazio Giuliano Cazzola per la chiarezza con cui è intervenuto, tra l'altro mi ha dato un'idea, perché dobbiamo tornare esattamente a occuparci di questa norma di cui ha parlato nel Jobs Act. Grazie a Cazzola, intanto torniamo noi tra un minuto. Della belva. Eccoci tornati qui per questa ultima parte della nostra trasmissione. Ma ci sono un po' di messaggi, ragazzi, su quello che abbiamo detto? Ce ne sono. C'è gente che si lamenta dei bei tempi andati. Sono tristissimo il pensiero che a Natale le nostre belle banche popolari non stamperanno più quei libri che regalavano ai migliori soci. Oppure non ci saranno più le feste col panettone, il prosecco, basta gite dei soci. Questo è il problema, altro che le azioni. E giustamente noi ringraziamo Enrico e tutti Ambrogio, tutti gli altri che ci mandano queste cose, questi bei tempi andati. Regalavano i libri di Collodi, quelli cui si chiedeva con il gatto e la volpe di mettere i soldi nel campo per i miracoli. Vi ricordate? Sì. Più o meno erano quelli di regalavano. Però è stato per tanti anni un metodo di gestione adesso è durato 20 anni, no, mica un giorno. Però l'agenda alla signora di una certa età che andava in banca. Ma posso confermare quando ero un piccolo bancario, io 20 erotti anni erano un metodo di gestione, sì, di marketing. Ma negli anni 50-60 era anche di fidelizzazione, ci mancherebbe. Ma però voglio dire, oggi il problema è che bisogna spiegare alla gente che forse bisogna giudicare le banche per i metodi di software che usano per la valutazione del rischio dei clienti, più che per i libri, le cose che danno, capito? Cioè è un po' diversuccio il criterio, per così dire. Ed è per quello, caro Oscar, che non bastano i soldi per fare una banca, non basta il capitale serve organizzazione del lavoro, tecnologia. E questo mi spiace, ma nessun Atlante le può portare. Esatto. No, però fatemi dire, sì. Praticamente c'è un ascoltatore che dice: Intese Unicredit, col 20% del capitale, sì, immagino di Atlante, comprano il controllo di territori molto importanti e remunerativi. E uno fin qua dice: ah, quindi non sei d'accordo. Subito dopo dice: evitando che sullo stesso territorio italiano arrivino fondi e banche straniere tipo cavalli di Troia. Fa presa. Arrivano i cavalli di Troia, ragazzi, e i loro figli. No, però... Ragazzi, l'autarchia fa presa. Vabbè, ragazzi, bellissima. Il regolatore italiano è il professor Bagnai. Ti prego. Adesso io lo dico apposta come battuta paradossale. Faccio notare ai tanti seguaci del professor Bagnai che non è una mancanza di rispetto. Attenzione, i regolatori italiani stanno assumendo le vostre posizioni. Voi dovete rivendicare il copyright, perché se la politica di regolazione bancaria, qui niente BRRD, niente fondi stranieri, eccetera, eccetera, voi dovete invocare che per coerenza non è che si può fare solo una politica di regolazione bancaria, anche quella della sovranità monetaria e della politica fiscale deve essere quella che invocate voi. Bisogna essere coerenti, cioè non è una battuta la mia, è una considerazione molto più seria. Che parte da lontano, quella dell'autarchia, diciamo. Ecco, esattamente. Beh, ma esattamente. La paura dello straniero molto spesso, secondo me, deriva anche proprio da un tema culturale, perché il problema è che molto spesso gli stranieri hanno un modo di operare che è completamente diverso. Molto spesso credono alle regole, credono ai numeri. Credono alle regole, credono ai numeri, eccetera. E diventa molto più difficile gestire le cose con una stretta di mano, chiamiamola così. No, non è una stretta di mano, cioè è un impianto di tipo mutualistico, perché poi Atlante è questo, è un intervento di tipo mutualistico. Allora, al netto del fatto che io non ho niente di male sul mutualismo applicato ad alcune cose, se il mutualismo si applica agli asset di controllo bancario del sistema di aziende bancarie private, e non può essere un sistema mutualistico, perdonate, per definizione significa sospendere al mercato. Significa che si sospende la valutazione a parte del mercato dei prezzi dell'equity bancario, ripeto, delle passività bancarie. Beh, però conosciamo... Oh, ragazzi, guardate che è una roba storica questa, A seconda delle caratteristiche che avrà, ci porta fuori dal circuito internazionale del mercato. E poi tutti potranno essere favorevoli, perché dipingeranno il mercato come i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Secondo me i quattro cavalieri dell'Apocalisse sono regolatori conniventi, sono due, e i tanti manager collusi col credito relazionale che praticavano con categorie economiche. Questi sono i quattro capolini dell'Apocalisse. È una visione di come deve funzionare il mondo. E il mondo che piace a Carlo Alberto, a me, a noi qui in generale, è il mondo della recovery, che rende inutile la risolution delle banche, cioè quello che bisogna fare prima per dare solidità, certo, alle banche, che rende assolutamente inutile, impensabile e poi doverle risolvere. Posso, no, dirti che non hanno ancora capito in realtà che i grandi poteri della BCE sono proprio prima, non, esatto, dopo, sono ex ante, esatto, non ex post, quindi non bastano i rabocchini di capitale, in realtà ci sono strumenti fortissimi per imporre business plan, per imporre conversioni eventualmente di obbligazioni subordinate in capitale, ed è questo quello che succederà. Io mi auguro per che non sia nessun bail-in, per non sana farlo. Banca, beh, efficiente, ti dicono: ah, volete il bail-in e le cavallette, noi vi salviamo. Posso... Mario, che Dio ce la mandi buona. Posso allacciare un non si può fare, sì, fatto nel posto sbagliato? Cioè? A me quello che spiace ultimamente è che molti miei colleghi, fatto nel posto sbagliato, perché molti miei colleghi fanno parte degli azionisti forti di questa radio, non hanno capito che il mondo è cambiato, mm, e quindi stanno appoggiando moltissimo questa cosa qua. Ah, cioè, no, ancora ieri io sentivo delle persone, sistema confindustriale entra a terra per l'Atlanta. Io ancora ieri poi sentivo delle persone che non si rendono conto che il mondo sta cambiando e che si lamentavano del cambio, vabbè, ieri era una cosa di macchine agricole, macchine agricole, del cambio dei consumi, cioè che della gente non sta consumando più le stesse cose ma che consumava vent'anni fa. Sbagliano, bisogna in qualche modo fargli tornare i vecchi. Esatto, perché se no noi non riusciamo comunque ad andare avanti. Ragazzi, Atlante serve per dire al mercato: i prezzi li facciamo noi, non tu. Quindi altro che in vasta scala, l'esempio che fai è calzante, secondo me. Allora, cari ascoltatori, speriamo di non avervi annoiato con cose un po' tecniche, avete capito i nostri dubbi, vedremo se ci stupiranno, se ci sbagliamo noi o hanno ragione loro. Ancora una volta grazie ai compagni di Conti la Belva, Mario, Carlo Alberto, Renato e Oscar. Buon fine settimana, continuate sulla 24, appuntamento con me e Alessandro Milano lunedì mattina alle 8:15. A te, tira i due. Fratelli d'Italia, l'Italia, le vesta, dai tempi di Scipio finì.